A Tempo di Sport di Giovanni Capuano. Buongiorno amici di A Tempo di Sport, è la vigilia del derby di Roma, il derby più sentito, quello che dura una stagione intera, quello che vale più di un campionato, così hanno raccontato da sempre i diretti protagonisti, quello che Zeman questa mattina ha preparato così. Vabbè, sono stato bene alla Lazio, sto bene alla Roma, poiché la Roma sicuramente c'ha la tifoseria più calda, più appassionata, si è visto anche quest'anno la nostra prima partita amichevole, penso che c'erano 40.000, alla partita della Lazio c'erano in 500, penso che c'è la differenza. E quello che Petkovic invece ha voluto preparare con queste parole. Già dal primo giorno ho capito cosa significa derby e cosa significa derby per tutti quelli che sono qua in Roma e intorno, perché si parla solo e si raccomanda solo di questo e sicuramente ho vissuto già qualche derby sul livello nazionale in Svizzera, è un po' diverso perché tutta Svizzera ha quasi abitanti come la Roma. Insomma, è la vigilia del derby di Roma, ma non solo, perché questa è una giornata importante per il campionato e tra l'altro in questi minuti c'è la guerra di Cellino che vuole aprire la tribuna centrale di Isa Arenas, malgrado manchi ancora il via libera della questura. Noi vi aggiorneremo in diretta fino alle 18, ora in cui inizia Cagliari-Catania. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi a Tempo di Sport, @radio24, la nostra pagina Facebook, @ Capuano Joe, diteci quello che ne pensate del derby di Roma, della Juventus, del Milan, ma non solo. E intanto buon pomeriggio a Carletto Mazzone. Grazie, altrettanto a voi ragazzi, altrettanto. Allora, domani è il derby, io non so se sta vedendo, seguendo, è un pomeriggio di vigilia frizzante, ha parlato Zeman, c'è la guerra dei tifosi, il conto di chi pesa di più a Roma, città, a Roma, provincia. Non è che sta tornando a valere un po' troppo questo derby per Roma? Il derby per Roma è sempre, c'è sempre una grande tensione, una grande attesa ragazzi, è un classico questo, di questa città sul piano calcistico. Ci aveva provato Zeman qualche anno fa a dire che era una partita come tutte le altre, no. Ha cambiato idea anche lui? Ma non lo so, ma penso di sì, è un uomo intelligente, lo sa, lo sente dall'umore, dal momento che esce da casa, che va a prendere il caffè nel bar, che poi viaggia, che va a comprare il giornale, che vive in mezzo alla gente, sente questa attesa, questa... Da una parte è bello, da una parte non è molto bello. Perché? Perché delle volte c'è un eccesso. Ci sono state anche tante cose non belle, incidenti, scontri, offese, insomma cioè, se fosse un pochettino più pulito sotto questo profilo penso sarebbe una cosa bella per la città di Roma. Quello di domani è particolare perché arriva anche nell'anniversario della morte di Gabriele Sandri, è il caso di sottolinearlo probabilmente anche per ricordare a chi andrà allo stadio che esatto. La vita è altro. Andiamo allo stadio, andiamo a giocare, che venga il migliore e che no, però che ci sia un controllo sia della tifoseria della Roma sia della tifoseria della Lazio, che ci sia il buon senso, ricordando che tutto questo gran cancà che si fa è per una partita di calcio che rappresenta, è vero, rappresenta la Roma città e la Lazio. Come vogliamo definirla, come regione. Drammatizziamo l'evento e andiamo nello sport, nella prestazione tecnica. Io mi auguro che vinca il migliore. Il fatto che sia tornato così importante, proprio dal punto di vista sportivo, significa che il calcio romano in questo momento ha una dimensione un po' più provinciale di quella che è stata, ad esempio, alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, dove il derby contava sempre tantissimo, però poi gli obiettivi erano più alti, erano diversi. Beh, il derby qua, il derby, non, il derby sia nelle due tifoserie non guardano la classifica, guardano l'impegno che è l'avversario. Roma-Lazio, per loro è Roma-Lazio, due partite, andata e ritorno, c'è una grande tensione, c'è una grande voglia di vincere, tutto qua, ecco. Zeman e Petkovic chi le piace di più? Ma ecco, Zeman è più tecnico dell'allenatore della Lazio. L'allenatore della Lazio è più tattico e più fisico nei confronti di Zeman. Tra l'altro stiamo imparando a conoscerlo, allora, ad apprezzarlo adesso. Io dico, c'è il mio cane che abbaia, non so. Lo sentiamo, lo saluti. Ecco, sente il derby anche lui. Non abbaia per la Roma né per la Lazio. No? No, dicevamo di Zeman e Petkovic. Ecco, io ho fatto una foto così, no? È chiaro che Zeman ha dei vantaggi perché conosce di più il campionato italiano, conosce di più la tensione di questo derby, però insomma anche la Lazio merita molto rispetto perché questo suo allenatore sta dimostrando di essere molto, molto per bene, molto valido. Va bene, però tra le due squadre sul piano tecnico io preferisco la Roma, sul piano tattico preferirei la Lazio. Lei Zeman l'ha battuto in un derby a metà degli anni 90, sì. Zeman allora era sulla panchina della Lazio. Secondo lei è lo stesso Zeman di allora? Perché molti hanno scritto che non è cambiato sia nei suoi pregi ma soprattutto nei suoi difetti. Ma non lo so, questo non lo so, io... Noi abbiamo fatto quella partita, fu una partita che non sbagliamo niente, anzi il punteggio ci penalizzò perché meritavamo anche qualche gol di più perché colpimmo pali e traverse e il giocatore della Lazio più bravo è stato il portiere, cioè questa è dimostrata una netta superiorità da parte nostra, però poi ho avuto anche delle difficoltà, adesso non ricordo più che altro gli altri risultati contro la Lazio perché li ho vinti, li ho persi, insomma, vabbè. Anche Zeman ne ha vinti e ne ha persi, esatto, tanti e con alterne, esatto, fortune. Esatto, sì, dopo più che gli allenatori in questo caso penso che sono i giocatori che fanno la differenza in queste partite, nell'autocontrollo di se stessi, nell'espressione tecnica di se stessi e poi il calcio non sempre c'ha una certa logicità. Il calcio esce anche non sempre vince il migliore, è un gioco che si verifica e che è imprevedibile, e specialmente nei derby dove c'è grande attesa, grande tensione, può succedere di tutto. Sono partiti, i derby in particolar modo sono risultati che veramente è una partita aperta. Sì, il calcio non è logico e a maggior ragione non è logico un derby e ancor, esatto, più a maggior ragione non è logico il derby, un derby molto sentito, molto viscerale come quello di Roma. Certo. Mister Mazzone, noi ci dobbiamo fermare un minuto per le notizie sul traffico, sì. Io ricordo 800 24 00 24 per chi vuole telefonare in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, @CapuanoGio per chi vuole scrivere su Twitter, oppure c'è la nostra pagina Facebook. Un minuto il traffico e torniamo con Carletto Mazzone. A tempo di sport. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta per dirci cosa ne pensate del derby. Ne stiamo parlando insieme a Carletto Mazzone. Potete anche scriverci al 349 238 6666 oppure su Twitter @CapuanoGio o ancora sulla nostra pagina Facebook A Tempo di Sport - Radio 24. Intanto prosegue il braccio di ferro di Cellino con la questura di Cagliari e a poco più di mezz'ora dall'inizio della partita ancora non si capisce se la tribuna centrale dello stadio di Isa Arenas sarà aperta come vuole Cellino o chiusa come vorrebbe la questura. Intanto però torniamo con Mazzone sul derby dell'Olimpico, il derby di domani pomeriggio, e io ripartirei dal ruolo di Totti, uno che questa partita la sente tantissimo, uno che quando ha fatto bene e li ha vinti i derby li ha giocati benissimo, ma quando li ha persi non ha fatto male, senza mezze misure ha fatto malissimo Mazzone. Ma lui lui chiaramente, dovete capire, lui vive queste due partite, queste, il derby per lui è una componente molto importante, sentitissima di noi romani, romanisti e chiaramente i laziali. C'è una tensione superiore a quelle che normalmente si verificano in un giocatore oppure in un allenatore, perché il derby si gioca non nella settimana che precede la partita, nella stagione, ma esatto, me l'hai rubato te, la stagione, perché magari sbagli tutte le partite, vinci il derby e viene dimenticato tutto quello che è stato fatto male, si è vinto il derby. Domani più decisivo lui o Klose? Può essere. Klose è certamente più freddo, anche se un anno fa ha scoperto sulla sua pelle cosa significa vincere un derby. Beh, io prendo sempre per Francesco Totti, questo non me lo dovete perdonare, per vari motivi, no? Sento un ragazzo, ho visto crescere, gli voglio bene, è un ragazzo veramente meritevole di una carriera che ha fatto. È molto, lui chiaramente, a differenza di Klose, lui lo vive più intensamente, che può dare i suoi vantaggi ma può dare anche i suoi svantaggi, perché Francesco chiaramente sente questa carica per affrontare questa partita, che conosce benissimo il valore di tutto questo, dei suoi tifosi, tutto quanto, però poi tutto questo può essere, è vero, positivo, ma può essere anche negativo sul piano nervoso. Ad esempio potrebbe esserlo anche per De Rossi, un altro che li soffre molto, domani dovrebbe giocare schermo davanti alla difesa, perché Zeman oggi in conferenza stampa ha detto di temere un po' la qualità che ha a centrocampo con Hernanes la Lazio, però diciamo la storia di De Rossi con la Roma è arrivata a un bivio in questa stagione. Lei che idea si è fatto delle polemiche che lo circondano? Innanzitutto a me dispiace perché De Rossi è un ragazzo che merita veramente tanto rispetto. Adesso però da così lontano, io vivo giornalmente leggendo i giornali e delle volte non riesco a mettere a fuoco veramente i concetti più importanti di questo suo comportamento e non ne voglio entrare dentro a tutto questo. Mi auguro solamente che lui possa fare un grande derby e che sia determinante per questa sua prestazione. Sì, c'è però un po' di confusione, perché è stata un'estate lunga, difficile, l'estate del rinnovo. In fondo De Rossi ha fatto un regalo alla Roma a rinnovare, perché sarebbe andato via tranquillamente a parametro zero, monetizzando interamente quello che poteva essere il suo valore. Io credo lasci sorpresi scoprire 2 mesi dopo, ad esempio, che non esiste un accordo tattico fra Zeman, De Rossi, la stessa società sulla sua collocazione. Sì, cioè, io penso che c'è stato un pizzico di confusione da tutte le parti, da tutti i personaggi che tu mi hai menzionato, e probabilmente anche De Rossi avrà commesso qualche piccolo errore non proponendo con grande chiarezza quali erano i suoi concetti. Uno, la società altrettanto. Adesso però io, ecco, mando un messaggio sia a De Rossi e alla Roma: pensiamo al derby e poi ne parliamo. Lei cosa ne pensa degli allenatori che vanno davanti ai microfoni a spiegare i problemi con i calciatori? Zeman lo ha fatto con De Rossi e Osvaldo, l'Inter, Stramaccioni ad esempio anche oggi l'ha fatto con Snyder, oggi sui giornali ci sono pagine piene ad esempio della vicenda di Pogba e della Juventus. Una volta i panni sporchi si lavavano in casa. Ma mando un messaggio forte agli allenatori: ma che pesci siete? Questo non vi compete. A voi vi compete, cari signori, e permettetemi di darvi un piccolo consiglio, anche perché almeno stando a casa tutti proponendomi come decano degli allenatori, ma non sarebbe stato più giusto chiamare questi giocatori dove si sono create tra tuo allenatore e i tuoi giocatori qualche scompenso, qualche malinteso, e parlare chiaramente e senza farlo uscire dai spogliatoi punto di domanda? Ha ragione chi dice che a livello di comunicazione queste cose stanno meglio dentro uno spogliatoio che sui giornali. Certo, sicuramente. A proposito di allenatori, Mazzone. Sì, prego, prego. Volevo anche capire qual è il suo pensiero su Conte. Si scrive che sta mancando molto in questa fase della stagione della Juventus. Si sta sentendo quale possa essere la differenza tra avere un allenatore in panchina e averlo soltanto in settimana durante gli allenamenti. Lei che idea si è fatto? Ma è chiaro che se più l'allenatore incide e più si sente l'assenza della panchina, chiaramente. Starà adesso a noi giudicare quanto Conte incide sulla sua squadra, io penso molto. E pertanto perde la domenica, diciamo, a una situazione difficile, più difficile di quando lui stava in panchina, perché in conto l'allenatore che in diretta immediatamente entra su quello che è il problema, invece probabilmente non ha più questo potere. Sì, Alessio e prima Carrera erano forse allenatori, ottimi allenatori dei professionisti, ma evidentemente con una possibilità di intervento, anche perché la presenza di Conte è molto forte in settimana, forse limitata in alcuni passaggi, in alcuni momenti si è visto. Sì, che è un allenatore importante che incide sulla squadra, quando non va in panchina qualcosa perde, dobbiamo capire tutti, no? Anche la sua presenza fisica, il suo modo di fare, il suo richiamare, il suo sostenere è in diretta, è vicino a quello che si sta verificando in campo. Questo penso che sia normale, anche se però non è che incide al 100%, cioè l'incidenza c'è, ma non così clamorosa. Quindi se c'è qualche difficoltà nella Juventus non è legata soltanto, ammesso che ci sia, non è legata soltanto all'assenza di Conte. Per chiudere, oggi ho visto un Allegri un po' rassegnato sulle voci che lo danno sempre in partenza, quantomeno nella prossima stagione. La riflessione che volevo proporle, Mazzone, è questa. In una settimana Allegri ha dovuto sentire Galliani fare i complimenti prima a Guardiola e comunque con queste foto del fratello di Guardiola presente a Milano, poi i complimenti espliciti di Galliani a Montella. Il mio parere personale non sono cose da Milan, è un po' come la focaccia di Blanc con Lippi quando c'era ancora Ranieri sulla panchina della Juventus. Alla lunga, per un allenatore, queste immagini, queste parole pesano tantissimo nei momenti di difficoltà. Certo, questo mettiamoci noi, prendiamo noi. Adesso io non parlo come allenatore, io parlo come commentatore, come non so, come anche come giornalista, come tifoso. Mettiamoci noi un momentino nei panni di quell'allenatore che viene messo in condizione così e che viene messo in ballottaggio, che insomma viene messo in discussione. È chiaro che questa persona, questo personaggio, questo allenatore, è chiaro che si sente mancare molto la fiducia da parte della sua società, e questo chiaramente non può essere un fatto positivo. E non mi si venga a dire che questo può essere utile per creare delle giuste tensioni, per reagire a che cosa? L'allenatore sa benissimo che ogni domenica deve reagire nel bene e nel male, ecco, per cui fatto dal Milan mi ha un po' sorpreso. Sì, perché tradizionalmente il Milan è molto attento a questi dettagli. No, ecco, se tutto quello che si sa è vero, è reale, è chiaro, perché io penso che questi sono problemi che vanno risolti. Se vogliono risolvi subito, che lo facciano. Però questo ballottaggio, allora pausa e lasciamo sereno questo allenatore fino in fondo e poi si deciderà. E poi si fa il bilancio a fine stagione. Grazie a Carletto Mazzone. Tante cose, saluto. Grazie a Carletto Mazzone. E noi, a proposito di Allegri, allenatore sotto pressione, allora sentiamolo oggi, un estratto dalla conferenza stampa prima della partita con la Fiorentina. E a queste frasi, a queste parole, chi le dice, chi le scrive, io non rispondo più, perché non è un problema mio, è un problema della società. Io sono arrivato al Milan 2 anni fa, io più che arrivare una volta prima, una volta seconda, non potevo fare. Abbiamo vinto una Supercoppa, ho avuto per 2 anni una grande squadra a disposizione. Quest'anno, con tutti i cambiamenti che sono stati fatti, era impensabile dopo 2 mesi essere in testa al campionato. Praticamente ho iniziato il lavoro con grande entusiasmo il 9 luglio quando siamo partiti, lo porterò a termine minimo fino al 2014, vedendo questa squadra crescere, sistemandola magari l'anno prossimo, per poter ritornare a combattere per i primi 3 posti. Insomma, questo lo avete sentito e Allegri, avete sentito anche Carletto Mazzone. Sentiamo qualche istante i rumori degli spogliatoi di Cagliari. Il giusto, i difensori, subisce gol e poi non riesce a recuperare. Ha fatto soltanto. Questo è il prepartita Sky Sport di Cagliari Catania che si gioca, pare, allora con questa tribuna, la tribuna centrale aperta, perché così ha voluto Cellino, anche se non era arrivato il via libera della questura. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Poi c'è la pagina Facebook e su Twitter @CapuanoGio, pubblicità, meteo, poi torniamo. A tempo di sport. 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Intanto su Sky Sport stanno facendo il punto i dirigenti del Cagliari sulla vicenda dello stadio Isarenas. Non è il presidente Cellino, però sentiamo qual è la posizione ufficiale. In questo momento ci sono soltanto dei giornalisti perché hanno trovato un varco aperto, ma la realtà è che i tifosi non possono entrare. Tant'è vero che c'è la gente che si accalca fuori dallo stadio, vorrebbe entrare perché la comunicazione di una chiusura dello stadio è stata data molto tardi rispetto a una comunicazione massiva. Questo è Francesco Marrocu, direttore generale del Cagliari. Siamo arrivati al paradosso dei giornalisti abusivi nel main stand, nella tribuna centrale di Isarenas, che resta invece chiusa a tutti gli altri tifosi. Andrea da San Marino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Prima di tutto ho perso l'occasione di salutare Carletto Mazzone, il conduttore di questi tempi, che sinceramente, personalmente, credo che manca molto al calcio italiano un personaggio così genuino come lui. Ricordo, sono memorabili le sue 2 curve, le sue corse sotto la curva dell'Atalanta e della curva sud dopo aver vinto un derby. Con questo ho chiamato per un altro motivo, per difendere Allegri, anche se sono un interista. Una squadra smembrata completamente, senza attacco, senza difesa, con giocatori vecchi, cotti, trovo poco stile anche io da parte del Milan, comportandosi in questa maniera, con un allenatore che ha vinto uno scudetto e l'ha perso lo scorso anno arrivando secondo. Volevo sapere cosa ne pensavate e un saluto ancora a Carletto Mazzone. Sì, ma non tanto nella scelta eventualmente a fine stagione di chiudere il rapporto o se i risultati dovessero continuare a mancare in maniera clamorosa come è stato in questo inizio di campionato, al limite anche con un esonero in corsa, fa parte delle storie del calcio. Io credo che per primo Allegri non se ne stupirebbe. La cosa che secondo me differenzia l'atteggiamento del Milan rispetto al passato è proprio questa incapacità nel gestire dal punto di vista della comunicazione la situazione. È difficile che Allegri non possa risentire di tutto quanto vede e legge, ed è vero che i giornali poi scrivono tanto, alle volte semplicemente raccogliendo delle voci, però è anche vero che in questa settimana le fotografie del fratello e manager di Guardiola le ha viste, e quello è il ristorante che è sempre, da sempre, il punto di riferimento del mondo Milan. Le parole di Galliani, i complimenti di Berlusconi a Montella, sono parole, complimenti, che sono virgolettati e non se li sono inventati i giornali. Ecco, da questo punto di vista certamente il Milan non sta rendendo facile la vita a se stesso e al suo allenatore. Stefano da Bergamo, buonasera. Buonasera, dottor Prego. Capuano, buonasera. Niente, io volevo solo salutare anche io Carletto Mazzone. Che immagino da avversario, che lei chiama da Bergamo. Sì, infatti. Però non può venirmi a dire proprio lui, cioè da che pulpito che arriva la predica, bisogna stare calmi nei derby. Ma perché? In fondo Mazzone, Stefano, Mi consenta, vogliamo bene tutti a Mazzone, evidentemente. Lui passerà la storia per quella corsa sotto la curva dell'Atalanta, però Mazzone è 30 anni di carriera in panchina ed è sempre stato uno dei più corretti. Io credo se lo possa permettere il richiamo alla tranquillità, soprattutto perché è il decano dei nostri allenatori. Poi quel giorno gli è partita la brocca. Eccola. Però ecco appunto solo quello, dopo li voglio bene anche io, è un personaggio e ci sta, nel calcio ci sta anche quello, per carità, però può capitare. Grazie Stefano. Buona serata. Grazie Stefano e buon pomeriggio, anzi ormai buonasera anche a Guido Vaciago. Buonasera Guido. Buonasera a voi, buonasera a chi ci ascolta. Collega di Tutto Sport che si appresta a vivere Pescara Juventus, vuoi bene anche tu a Mazzone, sottoscrivi il suo appello alla tranquillità domani nel derby di Roma? Tutta la vita, quello che dice Mazzone è sempre abbastanza saggio, a volte un po' pittoresco, ma insomma è la voce del buon senso spesso e volentieri, no? Sì, che poi davvero passerà probabilmente alla storia per quella corsa sotto la tribuna a Bergamo, ma Mazzone è stato tanto altro. Io ricordo, andai a Brescia due giorni dopo quella corsa, quando Mazzone ancora sotto shock fece una conferenza stampa e lui in romanesco disse: io lo so che quando morirò metterete tutti la foto della mia corsa sotto la curva dell'Atalanta, però io merito di essere ricordato anche per altro e mi sento di sottoscrivere assolutamente anche questo suo testamento postumo. E stiamo ovviamente augurando a Mazzone di vivere altri 1000 di questi giorni e anche di più. Esatto, chissà dove saranno le sue mani adesso. Esatto. Guido, invece, quante sere come queste dovrà vivere la Juventus? È una sera davvero importante, la Juve ha in qualche modo cancellato le scorie della sconfitta contro l'Inter o dobbiamo aspettarci comunque ancora una squadra convalescente? No, io penso che Conte spera, io credo che Conte speri che le scorie della sconfitta con l'Inter non siano ancora del tutto smaltite, perché sono scorie che hanno generato in qualche modo un meccanismo positivo, hanno innescato una spirale positiva, perché la squadra ha ritrovato quella rabbia e quella determinazione agonistica che sembrava aver perso prima della sconfitta contro l'Inter. Sembra proprio che le sberle dell'Inter abbiano risvegliato quello spirito guerriero che la Juve aveva perso. Contro i danesi del Nordjylland in Champions League hanno fatto una partita molto concentrata e determinata, cercando il gol anche dopo il 4-0, cioè facendo veramente una partita di grande aggressività. Contro il Pescara serve la stessa medesima lo stesso atteggiamento, e di conseguenza penso proprio che Conte abbia in qualche modo ricordato a tutti la sconfitta contro l'Inter di una settimana fa e abbia ricordato a tutti che senza quella rabbia questa squadra rende al 50% del suo potenziale. È una squadra in qualche modo intrappolata in questo modo di giocare, è il modo con cui riesce a esprimere al meglio le sue potenzialità. Io penso che anche la vicenda Pogba faccia parte di questa strategia della tensione, ma in senso buono, nel senso che certo, Conte si è reso conto certo della necessità di riattivare, riaccendere, andare a toccare nuovamente alcuni terminali del suo gruppo, della sua squadra. Mi sembra che la tua sia una lettura corretta, perché penso proprio che insomma due ritardi e l'esclusione dalla rosa per una partita sia una punizione quasi eccessiva, però fa parte da una parte di quel tipo di atteggiamento nei confronti delle regole che Conte vuole avere, vuole dai suoi giocatori, e mi sembra una cosa tutto sommato giusta e corretta. Dall'altra anche in qualche modo far vedere che nessuno può permettersi di dormire, nessuno può permettersi di adagiarsi, devono stare tutti sul filo, perché purtroppo questo è quello che richiede il calcio italiano oggi, il campionato italiano che non ha partite facili come quella di Pescara, che è una potenziale trappola, e di conseguenza tensione ai massimi livelli. Se mi consenti ti racconto un episodio. Prego. L'altro giorno ho fatto un'intervista a Pogba che potremmo poi pubblicare nei prossimi giorni, e l'impressione che io ho avuto del ragazzo è quella di un ragazzo, di un bravissimo ragazzo. Sono tornato in redazione dicendo questo diventa un campione. Questo è uno vero. i mezzi fisici ce li ha e l'abbiamo visto, i mezzi tecnici mi sembra anche, di solito uno a 19 anni quando ha i mezzi fisici e i mezzi tecnici ha un solo rischio, che non abbia la testa, e i campioni che con i mezzi fisici e tecnici poi sono sfumati. Sì, ricorda la storia di un compagno di scuderia, e per scuderia intendo quella di Mino Raiola, esatto. Ad esempio, a proposito di talento e mezzi fisici e mancanza un po' di testa, parliamo di Balotelli, Pogba non è Balotelli. Assolutamente no, ecco, sono tornato e ho detto ragazzi, questo è uno che ha parlato mezz'ora, questo parla tre lingue, comunque sta imparando l'italiano a tempo di record, è un ragazzo che a 14 anni ha lasciato la famiglia e ha iniziato a girare per l'Europa, quindi ha anche una mentalità abbastanza, è molto più maturo di un 19enne, di un calciatore 19enne italiano, ecco. Quindi insomma ero tutto esaltato, poi a distanza di 24 ore esce questa notizia, sono stato ovviamente oggetto di presa in giro perché... ma sono i rischi del mestiere Guido. Però devo dire la verità, ecco, continuo a essere convinto di questo, adesso poi i due ritardi pare oltretutto che uno sia legato a una questione di documenti, insomma, quindi che non sia esattamente uno che passa le notti in discoteca o cose di questo genere, non mi è sembrato il tipo perlomeno in mezz'ora di chiacchierata. Però ritornando al tuo discorso, sì, può servire anche quello, può servire anche a spiegare a un 19enne che questa è la Juve, che questa è un certo tipo di atteggiamento che serve per vincere le partite, quindi vale tutto. E quindi secondo me Conte sta utilizzando questo, e se questa sera la Juve dovesse fare una buona partita, la farà in virtù di questo agonismo ritrovato. Se dovesse fare una cattiva partita, forse perché è di nuovo... è bastata la partita con Norge Island per farli ricadere in una certa sicurezza in se stessi che per la Juve è deleteria. E intanto a quel punto si aprirebbero probabilmente delle riflessioni un po' più ampie su questa stagione della Juventus, così come io credo la Juventus abbia scoperto il lato B della convivenza con Mino Raiola, per le sue parole non so quanto apprezzate dal club. Guido, ti chiedo un minuto di pazienza, notizie sul traffico, poi chiudiamo la discussione sulla Juventus. A tempo di sport. Intanto ci scrivono anche sul Milan, è vero che il Milan ha sbagliato con Allegri, ma non quest'anno, tre anni fa quando l'hanno ingaggiato, deve ritornare a Cagliari perché è il suo massimo livello. Questo ci scrive un amico al 349-238-6666 insieme a una montagna di complimenti per Carletto Mazzone, con cui abbiamo raccontato la vigilia del derby di Roma. Per chiudere invece l'immediata vigilia di Pescara Juventus, Guido Vaciago, credo ci sia ancora un dubbio di formazione tra Quagliarella e Vucinic insieme a Giovinco. Sì, mi sembra che sia più Quagliarella che Vucinic in questo momento. E poi mi sembra che l'altro dubbio possa essere tra Giaccherini e Vidal, potrebbe rimanere a riposare Vidal e far giocare Giaccherini dall'inizio. È stata una rifinitura in cui Conte ha rimischiato le carte, quindi diciamo che fino all'ultimo momento non abbiamo certezze, fra un'oretta e mezza avremo... Sì, c'è un po' di turnover, perché si entra poi in un mese difficilissimo che tra l'altro è l'ultimo mese senza Conte, nel quale la Juventus si gioca tantissimo, perché ci sono partite difficili, perché c'è la doppia sfida con Chelsea e Shakhtar che peserà tantissimo a livello psicologico, si gioca tanto la Juve. Sì, diciamo che tutti i mesi sono decisivi, nel senso che potenzialmente poteva esserlo anche ottobre se la Juventus non avesse fallito la trasferta in Danimarca contro il Norge Island e se avesse battuto lo Shakhtar in casa, due partite tutto sommato alla sua portata. Questo mese di dicembre si sarebbe scaricato molto di significati, perché la Champions League si sarebbe avviata su un piano inclinato favorevole alla Juve. Adesso diventa decisivo soprattutto perché la Juve ha commesso quei due passi falsi che rendono obbligatoria una vittoria contro il Chelsea il 20 di novembre e poi fare almeno un punto almeno in Ucraina. Quindi sì, diventano 30 giorni di grande intensità, e il campionato, le partite sono più o meno, valgono tutte e tre punti all'interno del torneo, quindi quelle di questo mese in realtà non sono più importanti di quelle del mese scorso. Certo, ci saranno alcune trasferte insidiose come quella di San Siro, ci sarà una partita casalinga. E bisogna confermare, Guido, e poi ti saluto che andiamo sul rugby, bisogna confermare la superiorità vera o presunta della Juventus, e quindi io credo che chiudere la porta anche a qualsiasi dubbio. Penso sia questa la missione nei prossimi 30 giorni della Juventus. Grazie a Guido Vaciago. Grazie a voi. Grazie a Guido Vaciago, inviato di Tutto Sport sulla Juventus. Saluto Giacomo Bagnasco. Buon pomeriggio Giacomo. Buon pomeriggio anche agli ascoltatori. Dietro di te i rumori dello stadio di Brescia, dove l'Italia ha battuto 28-23 Tonga nel primo test match. So che sei con un ospite e allora due minuti tutti per te Giacomo. Sì, siamo in zona mista, Italia che ha vinto 28-23, primo tempo 18-16, tre mete degli azzurri con Cittadini, Ghiraldini e una meta tecnica. Proprio Cittadini è stato votato Man of the Match, ma in realtà probabilmente il migliore degli azzurri è con me al microfono in questo momento, e si tratta di Alessandro Zanni, che oltretutto ha oltre 40 partite, non salta un match. Terza linea di combattimento, terza linea che è andata anche vicina alla segnatura. A lui un commento su questa partita non del tutto soddisfacente. No, sicuramente di buono c'è il risultato, c'è il fatto che siamo riusciti a portare a casa la partita anche soffrendo, però dobbiamo analizzarla bene, perché durante il match abbiamo commesso molti errori che solitamente non commettiamo, e dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo iniziato con Jacques, ad applicare il nostro gioco sul campo, però cercando di migliorare e di limitare al minimo appunto il numero degli errori. Oggi ne abbiamo fatti più del dovuto e questo ci ha messo in grossa difficoltà contro queste Tonga, che sicuramente si sono rilevate una squadra veramente forte dal punto di vista fisico, molto forte, e quindi niente, dobbiamo prendere atto di questo, migliorare, perché sabato arrivano gli All Blacks, sarà una sfida durissima. Ecco, gli All Blacks è tutto dire, campioni del mondo, squadra mito che tu hai già affrontato, e che cosa si può sperare realisticamente dall'Italia contro una squadra che non perde da più di un anno? No, noi dobbiamo scendere in campo e fare la nostra partita, giocare più del 100%, dare il massimo. Dobbiamo fare una gara limitando al minimo il numero degli errori, perché questa è una squadra che ti punisce a ogni distrazione, quindi per noi dovremo fare una grande gara, soprattutto in fase difensiva, non come oggi, non concedere metri e spazi agli avversari. E niente, poi sappiamo che il caloroso pubblico dell'Olimpico ci sosterrà, ci darà una mano, e speriamo di fare una grande prestazione ripagandoli. Ecco. Sì, anche oggi Giacomo, ho visto un grandissimo clima al Rigamonti di Brescia. Ti chiedo di ascoltare insieme a me la telefonata di Fabrizio dalla provincia di Milano. Fabrizio, buonasera. Sì, buonasera. Le do 30 secondi che siamo in chiusura. Permissione, ecco. Prego. Niente, volevo riallacciarmi a quello che diceva Alessandro. In effetti io ho visto la partita dal vivo, ero sugli spalti, ma mi è sembrato che l'Italia avesse un gioco molto rallentato, troppi errori sinceramente, e quindi non lo so. Da migliorare è rivedibile di sicuro, Giacomo, troppi errori. Sì, errori sì, Tongani molto forti sull'impatto fisico fa comunque ben sperare. Chiedo anche ad Alessandro il fatto che l'Italia sia riuscita a chiudere in crescendo. Sì, sicuramente il primo tempo diciamo che lo ritengo molto più negativo del secondo. Nel secondo, soprattutto i primi minuti, siamo riusciti a giocare palla in mano, a proporci nel gioco. Il primo tempo purtroppo non riuscivamo a costruire più di 3-4 fasi e perdevamo il pallone, e loro riuscivano a contrattaccare bene, soprattutto vicino ai punti di incontro, anche perché molto spesso la nostra difesa non saliva mai. Dobbiamo migliorare, perché se teniamo il pallone siamo pericolosi, e solo facendo un gioco multifase possiamo andare vicino alla marcatura o a portare a casa punti. Oggi purtroppo vedi, non ci siamo riusciti, però quando l'abbiamo fatto abbiamo preso punti e siamo andati nei loro 5 metri, ad esempio abbiamo preso la meta tecnica. Bene, grazie ad Alessandro, gli diamo un appuntamento fra 7 giorni e di speriamo sicuro di commentare in ogni caso qualcosa di bello. Non c'è dubbio, noi Giacomo invece diamo l'appuntamento a te, anche con un ospite se vuoi, per domani, perché torneremo su questo primo test match dell'Italia. Grazie a Giacomo Bagnasco da Brescia, io ringrazio anche Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleoni in regia per la parte tecnica. L'appuntamento con A Tempo di Sport è per domani a partire dalle 16:30 e fino alle 19:00. Un saluto da Giovanni Capuano.